fossi yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Le frasi che mi capita di ascoltare con maggiore frequenza in questi giorni: mia madre, o in alcuni casi mia moglie, mia sorella, mia cognata, la mia colf, la mia badante, insomma donne, sta già cucinando. Quindi ci sono già delle cucine nel nostro paese che fervono di preparativi per quella che sarà la grande abbuffata delle feste. Ora, il mio non voglia sembrare un atteggiamento snobistico, tristemente anoressico, crudamente refrattario a quelli che sono i piaceri della carne, ma è indubbio che il fattore cibo incombe pesantemente sul nostro immaginario in questi giorni. Basta guardarsi con l'occhio attorno e improvvisamente riemergono pantagrueliche visioni di affettati, di maiali interi con il palo e tutti gli ornamenti, di frutta candita. Insomma, sono delle immagini che ci riportano a un'opulenza che probabilmente non condividiamo realmente con il nostro potere d'acquisto, ma che appartengono a questo sogno da cornucopia, a questo immaginario fatto di paradisi culinari che dovrebbero compensare qualcosa che probabilmente non riusciamo più a ottenere attraverso altre vie, altre maniere. Insomma, questa reietta mortificata, virtual assemblata, polimerizzata carne, probabilmente in questi giorni merita di essere compiaciuta attraverso il cibo. Quanto il cibo è importante in questi giorni, quanto i preparativi attorno al cibo, quanto le lucubrazioni intorno a ciò che mangeremo, quanto i discorsi si faranno a tavola su ciò che stiamo mangiando, quando il ricordo del cibo ci riporta improvvisamente a momenti delle vite passate o delle vite che forse mai abbiamo vissuto, ma che immaginiamo che sia possibile che noi possiamo un domani vivere. Ciao, sono Eva. Oggi prepariamo le lenticchie con il cotechino. Ingredienti: un cotechino da 400 grammi, 200 grammi di lenticchie. Io uso queste qua piccoline che sono più gustose. Ciao ragazzi, oggi prepariamo l'arista di maiale al latte. Ingredienti per 4 persone: un pezzo di arista di maiale, possibilmente italiano, del peso di un chilo. Abbiamo deciso di preparare il capretto al forno e ci sono delle fette di limone da mettere tutto attorno, non tanto per insaporire la carne, ma per aromatizzare, delle fette di pancetta da mettere sopra le spalle di capretto, in quanto il capretto giovane è abbastanza magra, la carne ha bisogno di essere un po' di un po' di grasso. Quale la pavloviana reazione a in questo momento, nella vostra giornata affaticata, nella vostra guida incazzata, probabilmente per la neve, per il gelo, per il maltempo, ma oggi qui a Roma è una bellissima giornata, nelle vostre cure prefestive di acquisti, di chiusura di impegni, di previsioni di terrificanti incontri familiari, questa elencazione di cibi, la rista di maiale, l'ignoranza crassa di questa signora, ma non è importante che lei sappia la giusta accentatura di ciò che sta comunicando, di ciò che sta cucinando, a parte la grande rappresentazione della spettacolarizzazione dell'impianto culinario, che fra l'altro è anche una parte cospicua dei palinsesti televisivi della TV satellitare. Ieri un'amica mia mi ha confessato: ma sai, io la sera quando soffro di insonnia, verso le 1 di notte metto a guardare quei canali televisivi sulla cucina. Ma chissà quale immaginazione, quale relax, quale piacevolezza delle carni inappagate darà quella visione di signore e signore davanti a fornelli e cucine che ti fanno vedere gli oggetti e i suscitatori di sensazioni gustative, di fornicazione papillare, che in realtà appaiono animati, appaiono finti, potrebbero essere di plastica, potrebbero essere quelle meravigliose riproduzioni che fanno i cinesi, che servono per le vetrine dei ristoranti: grandi piatti di pasta asciutta con sopra ragù, i sughi, grandi pesci imbanditi con il limone in bocca, con le fettine, con le salse, tutto finto, tutto di vetro resina, tutto di plastica, tutto splendidamente rappresentato, che possa suscitare comunque quelle che sono le reazioni emotive del gusto, ma che in realtà al tatto è inerte, sterile, non è nulla. La grande rappresentazione della cucina, il gusto, il cibo, 800 24 00 24. Iniziamo a parlare di quella che sarà la nostra grande abbuffata. La difficoltà del piatto è stabilire il rapporto fra i sapori del vino e il punto di cottura di ogni tipo di fegato, il quale prima deve avere macerato nello stesso vino in cui verrà cucinato a metà cottura, perché la cottura definitiva si farà dentro una pasta sfoglia. Esatto. Va bene? Oh, mangia, piccolo Michel. Mangia. Se tu non mangi, tu non puoi morire. Benissimo. Bene. Allora si comincia. Scusate un attimo. Dunque. Questo era un film fantastico, diretto da Marco Ferreri del 73, La Gran Buff, La Grande Abbuffata. Questo film ferocissimo in cui un gruppo di amici decide di suicidarsi abbandonandosi alla crapula più esasperata. Mastroianni, Tognazzi, Michel Piccoli, Philippe Noiret e un'indimenticabile donna, Andrea Ferrol, una sorta di meraviglioso trionfo di carnalità. Ho davanti a me la locandina di questo film, che allora passò con un moderato senso di scandalo, anche se quegli anni sembravano attraversati da fremiti che non riusciamo più a condividere, non riusciamo più a immaginare. Pensate oggi, mi diceva un amico, di cui tra poco sentirete la voce, che effetto farebbe questa locandina. Quattro amici dediti al piacere più esasperato, un piacere autodistruttivo, un piacere suicida. Si vede Michel Piccoli con in mano un grande vassoio di purè, si vede Philippe Noiret teso anche lui con una forchetta in bocca, ma soprattutto si vede Tognazzi felice, è tra le gambe divaricate di Andrea Ferrol, nuda, stesa, che allo stesso tempo è trionfo della concupiscenza, della lussuria, e mensa imbandita su di lei come fosse una sorta di deità, di una trimalcionica abbuffata dei tempi classici, uva, frutta, un cocomero, una torta, e Tognazzi felice con in mano una bottiglia di champagne, un bicchiere, dà un sorso allo champagne e un morso alle carni di questa donna, pronto a trapassare nella più felice delle maniere. L'amico di cui vi parlavo è Giuseppe Neri, neuropsichiatra, vicepresidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Giuseppe, buongiorno. Dicevamo un istante fa cosa oggi accadrebbe facendo vedere questa locandina. Carne, lussuria, cibo, esasperazione dei sensi, ma in un momento preciso in cui, come abbiamo sottolineato e osservato, in realtà la modesta e tranquilla crapula domestica fa parte del nostro immaginario. Questo sicuramente sì, Gianluca, però bisogna anche tenere presente che da sempre il cibo è strettamente collegato al piacere e l'appagamento del gusto non risponde solo alla necessità di nutrirci, ma ci appaga i sensi e ci dà benessere. In fondo, quella di Marco Ferreri è una splendida immagine di orgia gastronomica oltre che erotica, e rimanda a, e se avremo tempo ne potremo parlare, la fisiologia del gusto che già dall'Ottocento Brillat Savarin descriveva, con le connessioni fra l'alimentazione e l'aspetto sociale interattivo fra gli esseri umani connesso all'alimentarsi. Eppure, guarda, le remore e le garanzie di tipo etico e morale che sentiamo molto per la nostra educazione, per la religione di Stato, per il senso di pudicizia ostentata, molte volte meno condivisa, soprattutto nel nostro paese, tende la società ben pensante in generale ad assolvere il peccato di gola, ma invece a ritenere il peccato di lussuria carnale molto molto più detestabile. Io ricordo un romanziere francese, Alphonse Daudet, che racconta una meravigliosa storia di un prete che nel corso delle tre messe piane la notte natale non faceva altro che sognare il cenone, e improvvisamente sarà condannato a ripetere incessantemente per tutta la sua vita all'infinito le tre messe piane interminabili per aver pensato a questa sorta di contaminazione di lussuria del gusto. Ecco, perché la lussuria no e la crapula e la gola sì, viene ammessa, si può mangiare, ci si può intrippare, ma ahimè quella carne non può essere compiaciuta per altri piaceri. Ma penso che questa sia una sovrastruttura tipica della cultura e della tradizione del nostro paese. In paesi con un approccio meno strettamente legato al concetto di colpa e di peccato, questo è meno presente. D'altra parte... Ma c'è compensazione fra i due piaceri? Cioè chi mangia molto tromba meno, scusami il termine così veloce. Dal punto di vista squisitamente fisiologico, un sovraccarico alimentare con un sequestro, noi chiamiamo sequestro splanchnico, vuol dire che il sangue affluisce al distretto dell'intestino. Allora è evidente che per motivi di idraulica semplice, e come abbiamo bisogno di sangue anche altrove per espletare le funzioni a cui facevi riferimento, se finisce tutto a livello intestinale c'è una certa deprivazione e quindi una certa selettivo storno di afflusso ematico da distretti preziosi per l'attività copulatoria. Dirò qualcosa di più detestabile: una carissima amica di area romagnola mi disse: noi donne siamo così particolarmente focose alle nostre latitudini perché i nostri uomini mangiano come schifosi, stanno sempre a mangiare e mangiano e quindi si occupano meno di noi. Quindi trovi che sia un pregiudizio privo di fondamento? Ma io ti rispondo con un piccolissimo aneddoto. Una dottoressa romagnola mangiava davanti a un mio collega polacco che insegna neurologia a Cambridge, si chiama Thomas, e Thomas dopo un po' guardava, vedeva come questa mangiava e gli disse: Thomas, ascolta un pochino, ma tu condividi questa idea che da come una, che sia poi neurologa o no, una signora mangia, si possa in qualche modo formulare per larghi tratti qualche ipotesi su come fa sesso? Thomas mi guardò e mi disse: io ho una risposta pratica, ho sposato un'andalusa. In questo io non ho conoscenze sulle abitudini alimentari delle andaluse, ma immagino che lui facesse riferimento a una vivacità di comportamento non soltanto in ambito alimentare ma anche in ambito sessuale. L'andalusa mangerà la paella alla valenziana, immagino qualcosa del genere, non vedo riferimento. È un cibo molto corroborato da frutti di mare. Il frutto di mare si sa che è una metafora non soltanto visiva ma anche olfattiva e tattile, che riproduce le fattezze fisiche delle intimità più disparate, quindi può essere che per questo lo alluda, la vedeva nel succhiare l'ostrica e già immaginava chissà cosa. Esatto, ma tu devi pensare al passaggio fra le steppe al confine del nord-est dell'Europa, dove lui era nato, alla gelida Inghilterra con i suoi impegni accademici e alla vivacità della Andalusia con le sue abitanti. E la scettica Polonia, non dimentichiamo. Esatto. Lui l'ascesi l'aveva lasciata da molti anni. Massimo, buongiorno. Ah, buongiorno Nicoletti. Io le telefono perché sono milanese, sono in auto mi sono riconosciuto in quello che diceva, ovvero nella neve, col traffico, leggermente incalzato. E devo dire, mi ha messo di buon umore perché il suo modo... un diluvio di parole che lei usa per descrivere la preparazione del pranzo di Natale, il modo pantagruelico col quale le ha fatto venire fame. Il vocabolario mi fa pensare che fosse autoreferenziale, cioè lei stesse parlando della propria buffata. Ma guardi, io ho una repulsione purtroppo fisiologica verso il troppo cibo. A me piacciono molti dolci. Ma non verso le troppe parole, però, perché no, ma guardi che non ma è. Ma quello è il mestiere. Critica, lei cosa fa di là? Lei che mestiere fa? Qual è l'altra domanda? No, vuol sapere che dichiara. Vabbè, ma qualunque cosa sia, no, se lo inventi. Sono uno psichiatra. Ah, quindi è collega di Beppe Neri? Voi psichiatri siete molto furbastri. Voi parlate pochissimo, anzi, meno parlate e più siete attendibili. Fate parlare le altre persone, grazie. Ringraziate Dio e i vostri santi che sono persone che parlano e soprattutto vi pagano. No, per ma guardi, devo dire, è fantastica questa cosa, perché mi domandavo quale fosse la compensazione del diluvio di parole che lei usa, cioè cosa va a compensare. Va a compensare il mio conto in banca, mi pagano per parlare, è il mio lavoro. Alla fine qua è un compenso, diciamo così, economico. Vabbè, è un lavoro come un altro, guardi. Trovo che sia giustamente retribuito. Va bene Massimo, visto che vola soltanto... Sì, no, era un complimento e allo stesso tempo una diagnosi, no, una battuta. Ma ho già il mio psichiatra personale, guardi, ho Beppe Neri che pensa già lui ai miei problemi. Buon lavoro, bravissimo. Grazie, arrivederci. Vuoi? No. Ecco. Questi crepano tutti. Calmati. Fa uno sforzo, Michelle. È questione di volontà. Ma certo. Penso di essere un indiano di Bombay. Un indianino che ha fame. Una gran fame. Sì? Se hai molta fame, scusa, che cosa fai? Mangi. Beppe Neri, questo finale... del troppo cibo come autodistruzione, però un'autodistruzione piacevole. Di solito il progetto della propria fine passa attraverso sistemi drastici, cruenti, anzi, più è spettacolare, più è pubblica, più è visibile la propria fine, più è atroce, cruente e dolorosa, e più noi pensiamo di rappresentare qualcosa per punire l'umanità di non averci compreso. In realtà questi signori si rinchiudono in una bella villa, nessuno sa che loro muoiono, una sorta di suicidio che non ammette spettatori, non c'è pubblico, c'è soltanto il piacere di questa degradazione attraverso il cibo, delle fini terrificanti in cui i miasmi, gli effluvi, l'aspetto più orrendo della nostra umanità, che ciò che si cela sotto il velo di pelle che nasconde le viscere, viene tutta alla luce. L'uomo dimostra di essere una grande fabbrica di materiale digestivo, muoiono tutti nei loro rigurgiti e nei loro escrementi, una cosa terribile. Beh, per fortuna Mastro Ianni muore congelato nella Bugatti e questo è un pochino meno viscerale, ma c'è anche il discorso che bisogna... surgelato praticamente. Poi anche i Monty Python avrebbero ripreso molto dopo questa idea dell'esplosione, ma il concetto è anche che dobbiamo pensare cos'era nel 73 fare questo film. Significava per loro, secondo me, anche fare una specie di metafora di una società che si autodistruggeva cibandosi dei suoi appetiti. Secondo me risente molto di quelle connotazioni e noi oggi lo rileggiamo con un'ottica che valorizza proprio invece il discorso del comportamento alimentare come strumento poi per arrivare alla esasperazione assoluta e a pratiche di tipo squisitamente, diciamo, che c'era un ipocrita e finto ascetismo di tipo ideologico. La società dei magnaccioni rappresentata con un tratto poetico in realtà voleva dire che c'era una sorta di attenzione che non c'è mai stata da un punto di vista di ufficialità politica in realtà a chi faceva la fama, a chi soffriva, ai lavoratori, via dicendo, tutte ipocrisie sovrastrutturate, perlomeno in quell'accezione e in quel tipo di lettura. Vorrei però introdurre un altro ospite, Luisa Stagi, buongiorno. Buongiorno. Ricordo che lei è ricercatrice e docente di sociologia all'Università di Genova, ha curato insieme a Donatella Cavanna il volume Salute e Società sul fronte del cibo, corpo, controllo, soggettivo. Attività, edizione di Franco Angi. Innanzitutto, e quale sensazione epidermica le dà la nostra folle chiacchierata questa mattina di preludio alle crapule che per qualcuno sono un peso, per qualcuno saranno una gioia, che ci attendono? La trovo affatto folle, ma mi riconosco in tantissime delle cose che avete detto, anche perché appunto è un po' anche il mio modo di guardare il cibo, il corpo, e le sensazioni adesso connesse. E voi prima parlavate del sesso e cibo, mi veniva in mente Chocolat, il film in cui questo proprio viene messo in scena, anche il libro ancora di più, molto bene, no? Quindi questo... Come vede, la cioccolata è qualcosa che è quasi quintessenza al senso del cibo. Io infatti, fra le lussure alimentari che penso potermi concedere, una è la cioccolata, la considero quasi un cibo, una sorta di linimento, quasi è una sostanza psicotropa. Ma nel film lei, che è la bellissima Juliette Binoche, cerca di capire chi ha davanti attraverso proprio la cioccolata, no? Poi di solito indovina e dà la cioccolata giusta, a volte ci sono persone più complesse che non riesce immediatamente a collegare al tipo di cioccolata giusta, però poi la trova. Poi in quel film la cioccolata viene legata immediatamente alla trasgressione carnale, al sesso. Certo, sì. È una corruttrice, come se distribuisse piaceri fisici dando la cioccolata. E infatti secondo me l'aberrazione massima di oggi è la cioccolata light, no? Che è proprio tipica della nostra società in cui tutto deve essere limitato, no? Anche il piacere deve essere un piacere controllato ed è abbastanza sintomatico di quello che insomma di solito facciamo, vogliamo poter perdere il controllo ma non pagarne le conseguenze. Ne dice di questo lo psichiatra? La dottoressa dice una cosa secondo me estremamente stimolante, perché invece dal mio punto di vista l'altra faccia della cioccolata light è fatta invece da tutte le lussurie, dal 99% del criollo al 70% di quello ecuadoregno, fatto o non fatto in purezza, con tecnica modicana, per cui a Modica non mettono il burro di cacao, e tutte queste sono forme lussuriose di approccio al cioccolato e si potrebbero differenziare delle categorie di amanti che si riconoscono nella tipologia di cioccolato dal 70 al 90% e dalla tecnica di preparazione. Sono droghe pesanti però quelle che hai citato. questo? Assolutamente sì, però ancora concesse in questo nostro contesto socioculturale. 800 24 00 24, l'argomento mi sembra chiaro e definito, però mi piacerebbe sapere, visto che state ascoltando, probabilmente affascinati dall'elencazione dei cibi, molte volte sentir parlare di cibo già appaga o già crea disgusto in chi ha dei problemi alimentari, però cosa vi ingurgiterete nei prossimi giorni, di cosa godrete, cosa stanno facendo le vostre mamme, le vostre nonne, le vostre suocere, immerse in quelle cucine odorose, fumiganti. Io odio e disprezzo più di ogni altra cosa l'odore che viene dalla cucina. Apprezzo la buona cucina, ma vorrei una cucina asettica, che non abbia odori e precedenti, anche perché ho ricordi olfattivi legati alle cucine che a me danno idea di tedio familiare. Ecco, Beppe Neri, un'ultima battuta prima di dare le informazioni della borsa. L'idea della cucina, la preparazione della cucina, in realtà a volte dà delle sensazioni olfattive che non sono poi quelle che vengono mantenute quando il cibo si gusta. Su questo preludio cosa hai da dire? Beh, prima di tutto ho da dire che se tu, secondo me, avessi messo più mano con chi cucinava a casa tua, prendendo in mano le cose che poi avresti mangiato, oggi racconteresti cose diverse. L'altro aspetto è che la connessione fra il messaggio olfattivo, che prelude e annuncia il piacere gustativo, è una delle cose più importanti e più interessanti sia nella preparazione sia nella degustazione. Come entrare in un ristorante, senti degli odori buonissimi che poi non mantengono le cose che ti portano, a viceversa, senti quell'odore stantio, ti rimarrà attaccato alla giacca, cappotto, e già sai che mangerai male e sei, hai un pregiudizio, sì, molto sbagliato. Il nostro cervello processerà i sapori con la stessa parte con cui analizzerà i profumi. Melog 2.0. A questo vino bisogna che gli fate onore. Ma come, l'avete già cucinato? E la prescia non l'avete nemmeno sventrato? E me lo portate così? Il coco, chiamatemi! Cotto intero! Non l'hai aperto! Allora che aspetti, disgraziato? Sventralo qua, adesso! Oh, meraviglia! I tordi, gallini ingrassati, ventrigli d'uccelli, coloni salsicce, palombe più tenere, chiocciole, figo di cappucciata, prosciutto, coratella, rimaggione! Beh, come non fare riferimento alla cena di Trimalcione, l'opera di Petronio resa immortale dal punto di vista cinematografico da Fellini nel Satiricon di Fellini. Squarciano improvvisamente questo grosso maiale con un colpo di spada e dal maiale esce di tutto, escono fegatelli, salsicce, starne, uccelli, tutte le lussure poteva contenere all'interno. A questo punto il maiale doveva essere il cibo per eccellenza, in realtà diventa il contenitore di altro cibo, genera figlia altri cibi. 800 24 00 24, stiamo parlando del piacere del cibo, della crapola, della lussuria, dell'ingordigia, e soprattutto stiamo parlando del fatto che sotto feste c'è una grande abbuffata, una grande necessità di trasferire attraverso l'arte culinaria, o perlomeno l'ammasso dei cibi, perché molte volte cucinano malissimo le mamme e le nonne, fanno delle cose terrificanti, fanno delle cose pesantissime, fanno delle stratificazioni lardose alla nostra lucidità. Beh, devo dire che nella fretta e nell'inconsapevolezza ho commesso un grave errore. Quando parlava prima Beppe Neri, l'ospite psichiatra qui in studio, del suo collega polacco che raccontava le meraviglie di una sua collega andalusa, riferite al cibo, al rapporto che il cibo avesse con la sessualità, citai a sproposito la paella valenziana, che non c'entra nulla, è qualcosa che sta molto più a nord dell'Andalusia, e in Andalusia, come ci insegna l'ascoltatore Carlo, in realtà il cibo legato al sesso è molto ben definito. Carlo, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Lo dica lei, o se no lo dico io. Beh, in realtà mi è subito venuta in mente la carne di toro. Sì. L'Andalusia, la terra delle corride, e il toro poi non viene, diciamo, sciupato, ma si mangia la carne di toro in varie salse. È uno dei cibi peculiari proprio dell'Andalusia. Soprattutto ciò che il toro è più glorioso e più rinomato, in salsa piccante pare sia un piatto prelibato. Sì, infatti, non so quanto suggeribile agli italiani, però per via della sua pesantezza, nonché del fatto che è molto molto speziato, però insomma in qualche modo evoca ben altri piaceri, come giustamente. Quindi i testicoli del toro probabilmente era il piatto a cui si riferiva nel rapporto lussuria cibo, parlando della sua amica andalusa, lo psichiatra. Adesso ti è più chiaro, Beppe? No, ma Thomas se l'è presa proprio come moglie l'andalusa. Questa è la cosa interessante. Deve avere fatto uno stage di approfondimento enogastronomico, dopodiché ha maturato la decisione di approfondire questo legame in maniera stabile. Mattia, buongiorno. Mattia. No. No. Ecco, sta arrivando l'ascoltatore Mattia. Sì. Pronto? Eccomi qua, sì. Allora. Volevo fare i complimenti per la trasmissione innanzitutto. Poi non nota Mattia che non telefonano le signore, stanno tutte cucinando e sono sentite colte nel vivo da questa mia osservazione sulle loro attività preludiche, cioè che stanno preparando il piacere del cibo. Probabile, saranno impegnate tra fruste, tiglie, quindi il telefono in mano non lo possono prendere, questo è il problema. Beh, io sono umbro, le dico, la preparazione dei cappelletti, che era la minestra natalizia delle mie parti, richiedeva veramente la selezione delle uova da settimane prima, queste paste sfoglie che finivano più, e noi bambini con il bicchierino che facevamo il cerchio del cappelletto, e poi soltanto le nonne erano capaci a fare nella loro meravigliosa rappresentazione del cappello del prete, chissà perché. Sì, sì. Niente, io volevo dire, l'argomento mi ha colpito, mi piace come ne state parlando. Solo una cosa, secondo me non è da confondere la grande abbuffata che si fa in generale. Comunque spesso la nostra società è una società un po' strana, come ha detto anche prima, non ricordo chi, comunque una signora in ascolto, del cioccolato strano, il cioccolato. Beh, una sociologa, ha studiato il rapporto fra cibo e società, Luisa, esatto. Stagi, che abbiamo al telefono. Esatto, però non voglio mischiare questa controversia della società con il carattere proprio sociale, secondo me, di queste abbuffate nelle feste. Nel senso, io non sono un amante proprio spropositato del cibo, mi piace mangiare in quantità modiche, mi piace una buona cucina, però io credo che il carattere della grande abbuffata nella festa, che sia di Natale, che sia di Pasqua anche, è anche un modo per riunire la famiglia, che sempre più spesso è divisa, o passare molto più tempo a tavola che invece consumare un pasto in metropolitana o in un'altra parte della... Diciamo noi, travolti dai frenetici ritmi del quotidiano, diamo al cibo un carattere molto poco lussuoso, molto maggiormente orientato verso il sostentamento, le veloci colazioni, le velocissime riunioni per mangiare negli orari di lavoro, le insalatine incellofanate che circolano per gli uffici, quei cibi precotti, preparati, immagazzinati, standardizzati. Io e Tonti molte volte andiamo al supermercato qua sotto e ci sono le porzioni monodose di affettato, terrificanti, due fettine di bresaola, poi prende uno il panino già pretagliato, ci infila la sottiletta già preconfezionata e c'è un panino plasticato, però che serve a saturare il bisogno immediato di cibo, però non è nulla legato né alla creatività né alla lussura né al piacere. Invece vorrei sentire Luisa Stagi, che è stata evocata dal nostro ascoltatore, ricordo autrice di Salute e Società sul fronte del cibo, corpo, controllo e soggettività. Quanto funziona realmente la collante sociale, il rituale della buffata in famiglia o della buffata tra amici? Ah, certamente è veramente il rito per eccellenza in cui si celebra la famiglia, anzi essere parte di quel rito, quindi sedersi a quella tavola significa essere parte della famiglia stessa. Quindi, ma non è anche un antiveleno, dei veleni che sprizzano quando le famiglie si riuniscono forzatamente? Un film Parenti Serpenti, per rimanere è la mia Bibbia in tema di film. Ma non solo, io credo che durante questo rito vengano rafforzate, reiterate alcune anche differenze. Voi prima parlavate per esempio delle donne che preparano, no? Sono le donne che preparano e gli uomini che si cibano, da sempre è così. In questo rito questo ordine sociale, che è un ordine che noi diamo per scontato, ma che scontato non è, viene rafforzato continuamente, viene socializzata le nuove generazioni. Poi i grandi chef sono tutti uomini. sì, questo è... Quando diventa pura estetica, viene riappropriato, esatto, dal maschio. Come i grandi parrucchieri, come... Sì. Beh, oddio, su quello ci sono delle sfumature doverose da fare. Comunque, diciamo che sì, i grandi però nelle professioni tipicamente femminili, quando si arriva all'eccellenza, si passa al maschile, vero? Questo è tutta un'altra storia su cui mi piacerebbe un'altra volta magari riflettere. Senz'altro il tavolo è il momento di intimità per eccellenza, dove si saldano i legami e dove però si rappresentano anche i ruoli familiari, il potere, e dove, come giustamente citava prima nel film Parenti Serpenti, viene messo bene in evidenza, si tirano anche fuori quegli aspetti proprio più legati all'intimità, ma che senz'altro, insomma, con questo momento di convivio vengono fuori. Ecco, io devo a questo punto un'ulteriore doverosa puntualizzazione, visto che la filologia per i nostri ascoltatori è importantissima. Roberto, lei vive a Malaga e deve ancora aggiungere qualcosa sul cibo andaluso che tanto suscita i nostri istinti questa mattina. Buongiorno. Buongiorno. Sì, è vero, io vivo a Marbella, anche se, diciamo, mi alterno con un'altra abitazione in Varese. Quindi vivo già in Andalusia da 10 anni, conosco molto bene la cucina andalusa, sono sposato con un'andalusa di Malaga. Amo la cucina andalusa perché è una cucina mediterranea, molto, molto più sana forse delle cucine, diciamo, del nord della Spagna, che sono molto più pesanti. Necessariamente le persone che vivono nel nord, nelle zone più fredde, hanno bisogno di incamerare più grassi. In Galizia fanno una zuppona di pesce che... Mangiare quella significa avviarsi verso una sorta di calvario che dura settimane. Però andiamo al punto, perché non vorrei girarci attorno. Sì. Ha qualcosa da dire sul piatto che avevamo prima accennato, cioè questa sorta di confezione testicolare del toro? Non è vero che questo piatto è molto famoso in Andalusia, anzi, in Andalusia ci sono dei piatti completamente diversi. Tipo? Il famoso rabo de toro o ramo de toro. Adillas, come prima abbiamo parlato dei testicoli, appunto, che vengono cucinati. Non appartengono. Ma soltanto, molto. Visto che siamo per le peste, soltanto i testicoli o anche, diciamo, ciò che manca dell'apparato viene pure cucinato? Allora, no, solo i testicoli. Il toro, i piatti più famosi, diciamo, sono il rabo, quindi la coda del toro, ecco, che viene fatto con una specie di, diciamo, di stufato. Come la coda alla vaccinara dalle nostre parti. Sì, diverso, però diciamo che sì, è la stessa cosa, più o meno. E poi ci sono le criadillas, che sono effettivamente i testicoli del toro, sì, che sono... Però i piatti tipici andalusi non sono questi, sono il gazpacho, sono il salmorejo, che sono dei piatti cucinati con verdure, piatti freddi. Che il gazpacho, con tutto quell'aglio, devo dire che quanto di meno arrapante possa esistere. Però è quanto di più sano ci possa essere, perché l'aglio è un antibiotico naturale, regola la pressione sanguigna. Sì, ma il corpo sano è antitetico al corpo solleticato e sollecitato dalle lussure carnali. Siamo troppo estetici, preoccupiamo troppo del nostro alito, ci preoccupiamo troppo di essere profumati e bellissimi, cioè dovremmo pensare di più, credo, a una cucina sana, una cucina che ci fa bene, che non ci appesantisce e ci fa gioire di quello che, diciamo, è una delle gioie maggiori della vita, la cucina, credo io. Melog 2.0. Non dobbiamo assaggiare nulla prima del ringraziamento. Possa oggi il mio cibo nutrire il mio corpo. Possa il mio corpo servire la mia anima. Possa la mia anima in atti e parole rendere grazie al Signore. Amen. Non dire una parola sul cibo. Neanche una parola. Come alle nozze di Cana, il cibo non è importante. Non gli rivolgeremo il nostro pensiero. Incredibile. Amontillado. È il miglior amontillado che abbia mai gustato. Non ci sono dubbi, questo è certamente brodo di tartaruga. E che brodo di tartaruga. Sul crinale pericoloso che stiamo percorrendo del rapporto fra cibo e lussuria, con una pennellata delicatissima, con un sottinteso che non sconfina mai nell'esplicitazione più classica dell'aspetto criminoso di questo rapporto, è il pranzo di Babette, questa meravigliosa signora che butta via tutto il suo patrimonio, tutto ciò che lei possedeva, soltanto per far capire a una fervente comunità religiosa che in realtà nel cibo si poteva riscoprire una via d'accesso al piacere, che il peso fastidioso e plumbeo della loro visione della vita impediva loro di godere fino in fondo. Abbiamo al telefono Alessandra. Alessandra, buongiorno. Buongiorno. Vedo che ha messo su il film che avevo nella telefonata, avevo detto che è un riferimento, perché secondo me appunto il cibo è importantissimo. Anche lei è una tentatrice attraverso la buona cucina? Sono una sostenitrice dei sapori scelti, buoni, può darsi che a volte sia stata un po' tentatrice, ma penso che sia indispensabile. Un effetto collaterale, non previsto. Un effetto collaterale. Lei furbetta, diciamo, lei ride, lei lo sa che collaterale, lo faceva apposta. Non lo so, forse non me ne sono resa conto. Di fatto però... Ma perché se ne dovrebbe vergognare nel caso? No, ascolti, di fatto penso che la cosa importante siano i rapporti. Il cibo è un mezzo per tenere rapporti. Ho capito, ma con piacere lei... la coratella, perché dovrebbe essere meno grave che con piacere qualcosa che sta in altre dislocazioni nell'apparato fisico di un uomo? No, adesso questo, aspetti, che questa cosa non l'ho capito, perché ci tengo a dirle una cosa. In tutta questa giornata un po' particolare, io non sono ai fornelli, perché quest'anno mi sono emancipata dal fornello e ho deciso di ordinare un pranzo di Natale per tutta la famiglia che viene da noi, 20 persone. Ma ho pagato lo stesso lo scotto della casalinga, perché in queste strade allucinate, in questa coda pazzesca, sono dovuta andare a prendere questo famoso pranzo di Natale. Per cui pago comunque la mia... Ma già se l'hai portato a casa con 3 giorni d'anticipo? No, lo sto andando a prendere e facciamo domani sera. Lo conservo amorevolmente in luoghi freschi, preparati da tempo. A me fa un po' impressione sapere questa cosa di questi cadaveri surgelati che aspettano di essere mangiati. No, mi assicuro che non sono cadaveri, saranno squisiti e apprezzatissimi. Sempre ma lei pensi che sono già stati cucinati? Viaggeranno tutt'oggi attraverso la neve e il ghiaccio nel portapacchi della sua macchina. Arrivano a casa... Gli ridà una rivitalizzata così, gli dà una riverniciatina? No. Da qui a domani sera? No, stia tranquillo che sono squisiti, perché la fonte è ottima e comunque dietro c'è la mia fatica di andarli a prendere, e io su questo credo che sia il contribuire alla gioia del palazzo. Grazie, altri. Sentiamo David. David, buongiorno. Pronto, buongiorno. Rido ancora per la signora dei cadaveri surgelati. Dicevo, io come professione... Io penso che l'abbia... Dunque, il servizio di catering a cui si è rivolta l'avrà sicuramente cucinati ieri, quindi sono lì che aspettano. Oggi li andrà a prendere. Se li porterà a casa qualcosa come stasera. Tutto domani staranno lì, a casa sua, coperti, nascosti tutti. Se li mangeranno domani sera una cosa che era stata cucinata ieri, quindi con 2 giorni di ritardo. Quella maionese sarà un po' attaccaticcia, quel pollo sarà un po' avvizzito, non lo so. Comunque vada al punto. Allora, io dicevo che come professione purtroppo cucino, e quindi ogni Natale noi siamo una grande famiglia. E volevo intervenire dicendo che in realtà noi a Natale, nelle feste, cuciniamo non per mangiare, ma per spettacolo. Faccio un piccolo esempio. Ad esempio, noi al pranzo di Natale facciamo l'anguilla, ma in realtà nessuno la mangia, nessuno piace. Però ogni anno va fatta assolutamente l'anguilla, fatta nel modo più tradizionale. E la buttate via, una volta fatta la buttate? No, si mette al centro del tavolo, ma su un'anguilla che ne escono, non so, 8-10 porzioni, noi siamo più o meno una quarantina, ma forse qualcuno l'assaggia. E fatevela di plastica, la mettete lì in mezzo, le fanno i cinesi, meravigliose. Sono delle anguille sintetiche che sembrano vere. E ogni anno è la stessa cosa, non solo con quella, con tutto il resto, tipo l'abbacchio. C'è gente ogni anno dice che se si cucina l'abbacchio non viene perché c'è puzza in tutta quanta casa, e ogni anno l'abbacchio va fatto, siccome il 50% di noi non mangia l'abbacchio, però deve essere fatto assolutamente per tradizione. Quindi Beppe Neri, lo psichiatra, esiste una componente rituale È come fare del cibo, preparare del cibo, poi sacrificarlo agli dèi, buttarlo sull'altare. C'è una costruzione di alcuni cibi che ritualmente non esserci anche se nessuno li mangia. Beh, fa parte dell'aspetto liturgico, perché il pranzo conviviale, soprattutto il pranzo di Natale, è una grandissima liturgia trasversale che noi ci portiamo dietro ormai da secoli. Senti, Beppe Neri, a questo punto tu dovresti giocarti il tuo asso. Io so che tu hai prodotto una case history, un essere umano dedito radicalmente, visceralmente, per una parte preponderante della sua vita, qualcosa che ha a fare con il gusto, con il piacere. Tu introducilo, poi lo chiamiamo. No, nel senso che, come diceva Bria Savarin, gli animali si nutrono, l'uomo mangia, ma solo l'uomo di spirito sa mangiare. E Jerry Guacci, mio collega dermatologo, è un grande uomo di spirito che ha dedicato parte della sua vita a apprezzare il piacere vero del mangiare e del bere. Tu hai fatto un calcolo sulla sua componente corporea? No, io ho fatto un calcolo che, data la sua esperienza in campo enologico, da 30 a 35 mila bottiglie lui le abbia aperte e bevute. Jerry Guacci, buongiorno. Buongiorno, carissimo. Mi scusi, dottore, se la usiamo in realtà come cavia e come test. Si parla di 35.000 bottiglie che lei si è bevuto in vita sua. Non è possibile fare queste stime. Io sono un amante più che del cibo, effettivamente del vino, e Beppe lo sa, perché bisogna bere sempre bene, perché il vino deve essere buono e il vino buono fa bene, ovviamente entro certi limiti. E infatti la sera, quando spesso con Beppe siamo stati molte volte insieme a cena, abbiamo prima scelto la bottiglia e poi abbiamo di conseguenza scelto quello che avremmo mangiato, abbinato alla bottiglia. Voci non controllate dicono che lei giri con un port-en-fan, che in realtà... Io giro con un port-en-fan a sei posti, come se avessi sei gemelli, sei bambini, in cui entrano sei bottiglie. E quando vado a comprarle le ripongo lì, perché è un portanfan nel quale non si rischia di rompere le bottiglie. Ecco, in questo particolare momento dell'anno che stiamo analizzando, in cui c'è l'esplosione della quantità del cibo, per lei questo corrisponde anche a un'esplosione di quantità di vino? No, assolutamente no. Io evito accuratamente le grandi mangiate, le grandi abbuffate, anche perché se a una certa età, ormai io sono intorno ai 60, non posso più digerire bene come quando ero più giovane. E allora preferisco dosare sia l'uno che l'altro, però sempre roba di grande qualità. Ecco, lei ci consiglierà di usarla adesso proprio come... fosse steso su un tavolo anatomico, mi scusi l'accostamento, ma la dobbiamo osservare. Allora, Beppe Neri, vale per il nostro soggetto, dottor Jerry Guacci, quello che vale per qualsiasi essere umano. Cosa distingue, qual è la differenza tra lui e un alcolista? Ma è profondissima, nel senso che non esiste il concetto di abuso. Cioè, Jerry è il concetto di piacere portato all'estremo e sublimato, mentre per l'alcolista c'è la dipendenza, che è un rapporto completamente diverso con la fonte, in questo caso l'alcol. Quindi c'è soltanto un accidentale, fortuito contatto episodico con una sostanza che contiene alcol, che può essere il vino, ma sono universi che non si toccano. È come dire un buon gustaio e un bulimico, può essere lo stesso tipo di rapporto, mi sembra, fra patologia e piacere. Assolutamente, assolutamente. Questa ricerca estetica del piacere, del gusto, le papille gustative, perché un apprezzatore del buon vino, naturalmente il vino non potrà berselo da solo, quindi dovrà necessariamente associarlo, quindi si entra in un gioco di rimandi, di corrispondenze e di ricerca simbolica che fa parte comunque della necessità umana di parametrare, misurare il mondo che ci circonda, ma anche di una particolare predilezione alla qualità della propria esistenza. Assolutamente, c'è l'aspetto sociale e interpersonale, che è uno strumento di comunicazione, diventa anche il vino strumento di conoscenza e di comunicazione. Vino e cibo devono essere legati in maniera indissolubile. Chi apprezza il cibo però beve acqua assieme ha probabilmente qualcosa ancora da dover compensare nel suo equilibrio. Io conosco persone che sono dei buon gustai e che per loro scelta o circostanza bevono acqua, ma il discorso è l'arricchimento e il completamento, come se il vino fosse maestro della tavola che completa e gestisce il nostro comportamento alimentare. Esiste un discorso nostalgico che viene sollevato dall'ascoltatore Marcello. Marcello. Mi congratulo congratularmi ancora una volta con lei. Sì, ma vi congratulate, non perdete tempo, andate al punto. Il punto è questo, senta, io sono sufficientemente vecchiotto e devo dire che... Cioè quanti anni ha? 64. Beh, sì, in effetti è vero. In realtà però devo dire che al di là delle grandi abbuffate a cui lei faceva riferimento, devo constatare che si è perduta la qualità e tradizione della cucina, specialmente italiana e regionale. Oggi i giovani secondo me non sanno più mangiare, non sanno neanche riconoscere la qualità del cibo. Questo è l'aspetto più grave e questo lo dimostra, diciamo, l'esperienza che si acquisisce a ristoranti dove il peggio viene venduto al meglio dal loro punto di vista, tradendo completamente quella che io definisco la cucina cucinata. Diciamo la verità, e qui concludiamo: quando anche la cucina è diventata un grande business, quando anche la cucina di qualità, il prodotto di qualità, l'etichetta, il marchio, la ricercatezza è diventato un hard discount, è molto difficile che dietro la contraffazione, dietro l'elucubrazione del brand si nasconda poi una reale qualità. Ma abbiamo sentito questa mattina dei veri, profondi e radicali intenditori, e da loro infatti ci siamo ispirati. Beppe Nero, una battuta di conclusione, poi ci salutiamo. La battuta è che nonostante il Natale, il piacere del buon cibo e del buon vino vanno valorizzati come esperienze dello spirito. Grazie a tutti, ci sentiamo molto presto, penso dopo le feste. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.